Quindi sulle note di Annalisa, una finestra tra le stelle, noi apriamo una finestra con Civita, ci spostiamo poco più distante da Mormanno, qualche chilometro, Parco Nazionale sempre del Pollino, con il nostro Flavio Lagia di nonsoloturisti.it. Ciao Flavio, buonasera e ben ritrovato. Ciao Beppe, ciao a tutti, grazie mille. Ma a quanto ho capito ti stai divertendo veramente tanto lì nel Pollino e soprattutto a Civita. Beh, è stato anche un periodo molto impegnativo e ricco di appuntamenti emozionanti e di attività, però sì, naturalmente mi diverto anche molto. Civita è la mia casa paterna, diciamo, il paese di mio padre, è un posto in cui torno sempre molto volentieri, e a maggior ragione in occasione della Pasqua, dove il folklore e la cultura di questa tesoro nascosto tra i pendii del Pollino si rende ancora più vivo ed evidente. Ma mi racconti un po' com'è andata domenica mattina, mattina prestissimo per te? Sì, alla fine ce l'abbiamo fatta in qualche modo, io e il preziosissimo Mario Fracasso, che è stato con me in questi giorni come fotografo e come spalla su cui io mi appoggiavo in ogni occasione, ci siamo svegliati alle 3:30 mi sembra, no, volevamo fare dritto, volevamo andare avanti tutta notte, ma più che altro perché io ormai non mi fido più delle mie capacità di alzarmi a questi orari apocalittici, e poi a mezzanotte ci siamo convinti che forse avevamo raggiunto l'età per attivare un po' di buon senso, siamo andati a dormire almeno un po' di 2 ore. Ci siamo svegliati quando ancora la notte fonda, praticamente ci siamo trascinati piano piano in paese, e alle 5 un po' alla volta abbiamo assistito all'inizio di questo rito molto affascinante. Le persone sono entrate nella chiesa buia, mm-hmm, e hanno raccolto tutti un lumino, una candela. Il sacerdote, il parroco di questa congregazione, ha distribuito la luce, il cosiddetto rito della luce, e tutti quanti con questa candela in mano sono poi usciti dalla chiesa ancora buia. Una volta fuori, davanti al portone d'ingresso della chiesa, dell'edificio religioso, il padre ha cominciato a intonare le litanie disposte dalla liturgia. Uh-huh. Ricordo che qua siamo nel mondo dell'arberia o arbresh, cioè la parte della cultura italo-albanese, e quindi si svolge, i quali si svolgono ancora secondo il rito greco-bizantino. E perciò le litanie, le preghiere, i canti vengono svolti in italiano ma anche in greco, alcuni tratti addirittura in albanese, un albanese antico, l'arbresh, una lingua del 300. Insomma, dopo questa prima cerimonia il padre ha simbolicamente scacciato gli spiriti maligni che erano dentro la chiesa, invocando alle porte di aprirsi. Dentro ci sono sempre dei ragazzi, dei figuranti che sbattono dall'interno contro le pareti, opponendosi a questa cacciata, opponendosi a questo ingresso della luce per dissipare le tenebre. Alla fine la porta si apre, le luci si accendono, la chiesa si illumina magnificamente e si entra finalmente per celebrare la Pasqua con gioia e con animo lieto e festoso. E questo è stato così l'inizio della Pasqua, della Pasqua degli italo-albanesi per me qui a Civita, in provincia di Cosenza. Ma naturalmente non ci siamo fatti mancare nemmeno abbondanti mangiate, qui i sapori sono vivacissimi, quasi quanto le tradizioni folcloristiche. Volevamo andare in montagna ad assistere, ad ammirare le splendide cime del Pollino, purtroppo, lo sai anche tu, il tempo non è stato dei più clementi, ci siamo arrampicati con la macchina fin su a Colle Marcione, da cui si vede la vallata del Raganello e la piccola cima del Castellato tra i pendii. Quando siamo usciti dalla macchina nevicava, tu prima Foglione mi hai detto dove venire io in Calabria per far nevicare, bene sì, se non li fate in Calabria e ho fatto nevicare, a quanto pare, quindi siamo venuti contentati di un percorso un po' più limitato. No, siamo scesi nelle bellissime colle del Raganello, Mario ha scattato le foto che poi potrete ammirare su www.nonsoloturisti.it, ricordo che stiamo anche creando un archivio digitale a disposizione di enti e redazioni e curiosi naturalmente, aspiranti visitatori di queste bellissime terre. Insomma, abbiamo fatto il nostro lavoro per arrivare fino ad oggi, a martedì dopo Pasqua, dove si sono celebrate le vaglie, e quindi insomma la festa è continuata fino a stasera. Flavio, però io direi, giusto, ti fermo un attimo, perché ci andiamo ad ascoltare un po' di musica, ci andiamo ad ascoltare i Pink Floyd, ma ritorniamo subito ancora in tua compagnia qui su Radio Stonata. Però sai che cosa? Mi viene mossa una critica, no? E ne volevo parlare giusto un attimo con te prima. Che quando mi rivolgo a te devo rivolgermi non come se sono solo io ad ascoltarti, ma come ci siano sono tantissimi altri ascoltatori. Infatti Maria mi scrive: non devi fare in questo modo, cioè devi smettere di dire ma di, non dimmi, non dimmi, ma dici. O se vuoi un'alternativa puoi cominciare semplicemente a usare il plurale maiestatis, così accontentiamo tutti il tuo ego e la voglia di partecipazione degli ascoltatori. Va, andiamo ad ascoltarci Pink Floyd, va. L'elicottero sul finire della splendida canzone dei Pink Floyd qui su Radio Stonata. Sono le 20:37 minuti, siamo sempre in diretta Suite Stonata, siamo collegati con il nostro Flavio Alagia di nonsoloturisti.it, che per le festività pasquali si è trasferito giù al sud e precisamente nel nord della nostra splendida regione che è la Calabria, la regione che ci ospita, e si trova nel bellissimo paese di Civita, un paese di origine arbresh, cioè dove all'interno si trova la cultura italo-albanese. E Flavio, ora ci racconterai qualcosa che riguarda più nello specifico, oltre alla splendida celebrazione a cui hai assistito alle 3 del mattino circa, tra sabato e domenica, precisamente era domenica mattina. Ora ci parli di cosa, Flavio? Sì, dicevo che la festa qua sta continuando. Oggi si sono svolte le valli. Le valli non sono specificamente una celebrazione religiosa, è solo una curiosa coincidenza che vengano collocate sul calendario proprio il martedì di Pasqua. Le valli in realtà sono una celebrazione culturale, una rievocazione della vittoria di questo leggendario comandante Giorgio Castriota, detto Skanderbeg, che nel XV secolo arrivò con il suo esercito in Italia per assistere i regnanti locali nella difesa contro gli invasori turchi ottomani, nella cacciata dei saraceni. E si dice, la tradizione vuole, che proprio il martedì dopo la Pasqua lui ottenne una clamorosa vittoria contro il preponderante esercito ottomano. E da allora per Pasqua si celebrano le cosiddette valli. Le valli non sono altro che delle danze in cui i partecipanti, vestiti con gli abiti tradizionali albanesi, si portano mano nella mano attraverso il paese, cantando gli inni che evocano le vittorie, le gesta degli eroi di questa comunità, di questa orgogliosa comunità. In particolare a Civita, dove si svolgono queste celebrazioni, vengono invitate anche le comunità circostanti a partecipare a questo evento, ognuno con il suo costume, ognuno con i suoi canti, con le sue musiche. A Civita, dicevo, i partecipanti del coro, i membri di questo coro, mano nella mano accerchiano un forestiero e lo portano verso il luogo in cui lui si pagherà il suo riscatto offrendo da bere ai cantanti, ai coristi. E anche oggi, come ogni anno... E tu sei stato rapito da tutto ciò, Flavio? Come? Tu sei stato rapito da tutto ciò? Io purtroppo quest'anno non sono stato rapito, perché ero impegnato a gestirmi nella documentazione dell'evento. Io e Mario siamo corsi da un angolo all'altro per prendere le foto migliori, per intervistare i partecipanti, per fare il nostro lavoro. Non so che suona strano, ma anche io, nonostante mi diverta, ogni tanto lavoro o faccio finta di fare qualcosa di utile alla mia professione. Comunque non sono stato accerchiato, ma dicevo appunto, c'è stata questa lotta contro il tempo. Stamattina è stata una giornata radiosa, poi è arrivata la pioggia, addirittura il nevischio, e i ragazzi che partecipano a questi cori, a questi gruppi, indossano i vestiti tradizionali, che sono dei vestiti veramente preziosissimi, oltre che belli, elaborati, ricamati a mano. I ricami sono in oro e i tessuti sono pregiati, molto delicati, quindi insomma non possono andare in giro sotto l'acqua e sotto la neve, è chiaro. e perciò abbiamo cercato, abbiamo aspettato fino all'ultimo sperando nel tempo, alla fine siamo riusciti ad assistere a questa celebrazione, siamo scesi in piazza con i gruppi che intonavano i loro canti e siamo riusciti anche quest'anno a celebrare le vaglie. Purtroppo volevo avere con me il gruppo folcloristico di Civita, di cui il mio amico e inossidabile compagno di viaggi calabresi Giuliano Guaragna è l'instancabile pilastro, ma come tu sai c'è stata una visita molto, molto importante, quasi una sorpresa, si è saputo soltanto da poco tempo, dell'arrivo del presidente della Repubblica Albanese. Presidente che nonostante le mie vocazioni è arrivato con circa 2 ore di ritardo rispetto al previsto. Ovviamente, come giusto che sia, anche il gruppo folcloristico di Civita è rimasto in piazza e poi in municipio ad accoglierlo, e quindi io mi ritrovo qua sullo soletto e non mi azzardo assolutamente, tranquillizzati Beppe, non mi azzardo a intonarveli io i canti. No, io mi aspettavo una tua... non è proprio il caso, non farebbe assolutamente onore né a Skanderbeg né alla cultura italo-albanese. Spero di recuperare questo momento di musiche popolari magari in un'altra occasione, visto che ho la fortuna di fermarmi ancora per qualche giorno qui a Civita in Calabria. Io mi aspettavo una tua intonazione di un canto appunto Arbres, cioè ora se vuoi dico al nostro regista di togliere la base e tu ci canti qualcosa. Sì, guarda, mi sembra che non sia assolutamente il caso. Assicuro che chiunque mi abbia mai sentito cantare, che abbia avuto la malaugurata occasione di scontrarsi con questo evento, è d'accordo con me, non è il caso, ma c'è chi lo sa fare molto meglio di me, farò il possibile per farcelo diretta una prossima occasione. Flavio, però ti abbiamo visto benissimo a fare il driver, benissimo a fare l'attore in quel famoso filmato che girava su YouTube di qualche mese fa, eri ospite a Milano se non ricordo male, anche... A Rimini, lì sei stato bravissimo a interpretare quella parte, cioè ora non vuoi fare il cantante per noi? Beh, lasciamo stare, guarda, va bene così. Quindi, mi stai dicendo che il collegamento è terminato? Sì, no, beh, credo che ci siamo detti tutti, insomma. Oh, ok, no, io era giusto per capire, pensavo che volevi proprio cantare, per questo stavo ancora aspettando. No, è inutile che cerchi di darla per lunghe, non mi convince, non canterò, okay. Ti assicuro che ti sto facendo un favore. Va bene, quindi chiudiamo così, chiudiamo con le vaglie, chiudiamo con questa aspettativa, speriamo che si realizzi in futuro. Ricordo Civita, in provincia di Cosenza, Calabria settentrionale, come hai detto tu. Siamo tra le cime del Pollino, nell'area orientale del Pollino. Chiunque abbia la fortuna di raggiungere questo paese incontrerà non soltanto queste bellissime esibizioni culturali, ma anche le meravigliose gole del Raganello, che scavano un canyon profondo e molto affascinante proprio qua su cui si affaccia proprio Civita. C'è natura, paesaggi, attività all'aria aperta. Io rimango qua un altro po', casomai scopro qualcos'altro, ve lo faccio sapere. Per raggiungere prometto di non cantare mai in radio. Va bene. Io aggiungo, per raggiungere Civita o fate l'uscita prima Mormanno se venite dal nord d'Italia, se invece arrivate dal sud della Calabria o dalla Sicilia, perché state arrivando dal sud, appunto l'uscita sempre prima Mormanno, perché l'uscita di Mormanno è chiusa per raggiungere poi Civita. Raggiungete, naturalmente poi c'è tutta l'indicazione stradale e Civita è facilmente raggiungibile dagli svincoli autostradali della 3 oppure dalla 106 Ionica, sempre in Calabria, Parco Nazionale del Pollino, Civita. Flavio, io ti ringrazio e ci sentiamo giovedì. Ci sentiamo giovedì, grazie a te Beppe, grazie a chi ci ha ascoltati così pazientemente. Buona serata a tutti.